tutti i bambini con i chiodini, vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale e ricordiamo e ricominciamo con una nota storica che ricorda il famoso sacco di Prato del 1512. 28 agosto 1512, il cardinal Giovanni de' Medici, a seguito delle truppe spagnole legato pontificio, dirige l'assalto alla città ribelle di Prato, rendendosi complice della strage di circa 5.000 persone, tra cui molti preti, frati, suore, eccetera. Dal Corriere della Sera del 15 gennaio 2020, l'amore di Galileo per la verità. Ci ricorda una nuova edizione, un nuovo testo su Galileo che si trova in edicola dal 15 gennaio. Passiamo dal mio archivio dei misfatti clericali a questa vicenda dai contorni boccaceschi. Sono un prete e la sua perpetua, che sarebbe un'ex suora, che gli ha incendiato la canonica. E dice il prete: per lei solo affetto paterno. Prete smentisce in relazione con la perpetua, ma in realtà chiaramente c'era questa relazione che è finita male, perché secondo l'ex suora il prete avrebbe avuto una relazione con altre donne, e siamo nel 2006. Ritorniamo all'età contemporanea, al quotidiano nazionale del 21 gennaio 2020. La Bibbia riveduta e scorretta, secondo noi, il musical degli Oblivion è un genere che fa parte della nostra storia. Perché la Bibbia? Da un po' ci girava l'idea, già nei precedenti lavori c'erano sempre qualche piccolo sketch anticlericale e dissacrante. Poi veniamo al quotidiano nazionale, al Fatto Quotidiano del 18 gennaio 2020, pagina 19. Danza delle suore, Venezia scomunica Paolo Sorrentino. Infatti avrebbe fatto una scena con monache, finte monache ovviamente, discinte e sensuali sotto la croce del cenacolo palladiano di San Giorgio. Ah, cosa succede all'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, vicino a Milano? Succede che i lavoratori sono in rivolta contro la direzione clericale. Soldi per i vostri profitti, li avete presi dai nostri diritti. Sacra Famiglia che impoverisce le famiglie. Firmato Usi Sanità, Coba Sanità, Università Ricerca. Veniamo poi alla recente morte del filosofo Severino, bollato come eretico come Giordano Bruno. Era stato allontanato dall'Università Cattolica. Emanuele Severino, addio al filosofo dell'essere. Allora, nel 1869 la Congregazione per la Dottrina della Fede dichiarò che la filosofia di Severino era incompatibile con la rivelazione cattolica, cacciandolo dall'Università Cattolica di Milano, per cui si trasferì a Venezia. Il pensiero di Severino è un pensiero del qui e ora, che non demanda a un improbabile al di là al momento della salvezza, quindi in rotta di collisione con il clero. Veniamo poi al quotidiano nazionale del 22 gennaio, come commenta la morte di Severino. L'essere di Severino un pensiero antinichilista. Nel 68 fu condannato dall'ex Sant'Uffizio come Giordano Bruno, Galileo, eccetera. I contrasti tra il suo pensiero e la dottrina cattolica furono evidenti e via via più aspri, fin dalle sue prime pubblicazioni. Ma specie dopo il suo ritornare a Parmenide si rivelarono insanabili. Nel 68 venne istituito un processo, proprio come Giordano Bruno, dall'ex Sant'Uffizio, che dichiarò la sua filosofia incompatibile col cristianesimo. Veniamo ora al parroco fascista di Vanzaghello, in provincia di Milano, che ha paragonato Greta a Hitler, le Saldine ai bolscevichi, eccetera, eccetera. È un reazionario misogino, nemico delle donne, ed è diventato famoso in tutta Italia. Cattolicesimo macabro. Da Il Notiziario del 17 gennaio, pagina 17. portate a casa un osso di Sant'Abbondanzio. Sì, avete sentito bene. Il parroco pazzo di Cislago ha proposto ai fedeli di portarsi a casa delle ossa di questo santo morto secoli fa e poi di riportarle dopo qualche giorno. Buona notizia da Varese, matrimonio laico straccia quello clericale. 199 contro 105 matrimoni religiosi. Secondo me e questo cambiamento nel giro di neanche 10 anni è dovuto soprattutto allo scandalo dei preti pedofili. I giovani che sono più attenti alla realtà si vergognano evidentemente di farsi sposare da un pedofilo, no? Quindi ogni prete viene visto come un sospetto pedofilo. E quindi il prete ormai si accetta solo per i funerali, tanto ormai sei morto, cosa te ne frega. Veniamo alle date del calendario anticlericale. Per esempio 23 gennaio 2018 Bergoglio si scusa per lo scandalo dei preti pedofili cileni. 24 gennaio 1936 il cardinal Goma y Toma aizza l'insurrezione contro il governo spagnolo repubblicano. 25 gennaio 1942 nota riservata della Segreteria di Stato Vaticano sulla deportazione nei campi di sterminio degli ebrei boemi. L'Osservatore Romano e Radio Vaticana tacciono. 26 gennaio 2017, a Clermont-Ferrand, Francia, un sacerdote condannato a 2 anni per pedofilia. 27 gennaio 1751, editto censore dell'Inquisizione, contro un libro in francese che riportava motti latini sgraditi alla Chiesa. Bene, cari compagni e amici di Radio Wombat, saluti a tutti e ci rivediamo prossimamente, ci risentiamo prossimamente. Saluti.